Alle 8:20 minuti in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare l'onorevole Davide Caparini della Lega. Buongiorno, onorevole. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Primo firmatario della legge per gli incentivi per favorire nelle regioni dell'arco alpino il reclutamento di militari volontari. Ha avuto una battuta d'arresto, la Lega si è arrabbiata, dice, lei dice verrà approvata lo stesso. Sgombiamo subito il campo degli equivoci, onorevole, vuole le quote nordiste per gli alpini? No, no, assolutamente. Non è questo ciò che ci ha spinto a presentare una proposta di legge che nasce dalle conseguenze dell'attuazione dell'esercito professionista. Gli ascoltatori sanno che ormai siamo oltre 10 anni dall'applicazione dell'abolizione della leva, che ha portato delle evidenti conseguenze e che vanno corrette, che il legislatore deve... Cioè quali sono queste conseguenze? E le conseguenze è che c'è un forte sbilanciamento nel criterio di reclutamento. Non eravamo preparati, noi venivamo da un esercito di leva in cui la società entrava all'interno dell'esercito e poi ritornava alla società dei giovani preparati, che oggi vengono a mancare soprattutto in alcune zone. Pensate che per quanto riguarda le richieste di reclutamento solo l'11% provengono dal nord. Questo è il problema. Sia proprio una delega di una parte del paese a un'altra parte del paese a difenderlo. Ci sono troppe, diciamo, gli alpini sono composti, credo adesso, dal 70% da persone del sud. Il corpo che esattamente. Onorevole, mi faccia fare la domanda, ma non siamo tutti italiani. Prego. Non siamo tutti italiani. No, assolutamente, che è ovvio che siamo tutti italiani, ma se il corpo degli alpini, che è un corpo che per sua vocazione recluta il personale militare nelle zone alpine appenniniche, stiamo parlando proprio perché siamo tutti italiani, stiamo parlando del nord e del centro del paese. Sì. È così influenzato nel reclutamento ed è costretto a prelevare giovani in bacini che sono tradizionalmente diversi, sì. La dice lunga su come il criterio di reclutamento sia sbagliato. Cioè un alpino, come dice la parola, sta dove c'è la montagna, dovrebbe essere legato una cultura. La tradizione è ovviamente nell'esercito non è tutt'altro che secondario, ma al di là di questo, che è un aspetto comunque importante, a meno che non vogliamo dei mercenari e non dei soldati, ci sono tantissimi corpi in Italia, a partire dalla Brigata Sassari, alla Gunari, alla Folgore, che fanno della tradizione un motivo di vanto, di orgoglio e della peculiarità che poi distingue le nostre forze proprio nei teatri e nei scenari internazionali. E quel tratto umano che tutti ci riconoscono non è deriva dalla storia, dall'identità, non è che... Insomma, però l'hanno accusata di questo, cioè vuole fare l'hanno accusata questa legge, insomma, di fare le quote per quelli del nord. Chi ha accusato questa legge non conosce la legge. Ovvero, proprio quando il Parlamento si stava rendendo conto dei rischi connessi a introdurre un sistema così diverso come quello professionista, nel 2004 introdusse una norma che è legge dello Stato, alla faccia di coloro che si stracciano le vesti parlando di incostituzionalità, in cui c'è la preferenza per l'arruolamento nel corpo degli alpini ai giovani che provengono dalle zone tipiche di reclutamento alpine, insomma. Ed è legge dello Stato. In più, in questa norma, che è la norma che attuava appunto l'esercito professionista, veniva dato anche un trattamento economico diverso proprio per incentivare coloro che sono di quelle zone a fare. Insomma, lei respinge le accuse di volere un provvedimento razzista. Si tratta, ma questo l'abbiamo fatto anche in accordo anche con il Ministro della Difesa, di dare attuazione ad una legge che abbiamo verificato essere insufficiente o meglio inefficace. Come? Lo abbiamo fatto scegliendo degli strumenti che sono, tra virgolette, più attinenti, federalisti, attinenti a quella che è stata la modifica poi dello Stato italiano stesso, della sua natura. In ogni caso, poi vedremo come andrà questa legge. Ma per concludere le chiedo, ma 70% di alpini del sud, è un qualcosa che a lei suscita che cosa? Cioè, fastidio, no? Figuriamoci, no, penso a quei gioani, agli oltre 1000 giovani che dalla Sicilia sono costretti ad andare a Bipiteno a vivere per 4 anni. lo fa per loro. Ma le sembra normale? Cioè, stiamo riproponendo un modello di migrazione interno degli anni 50, non so, siamo nel... Ma ho capito, ma onorevole, ma c'è gente che va a vivere a Tokyo, c'è gente che va a vivere, c'è un mondo globalizzato, cioè se uno di 4 anni della Sicilia va a vivere a Vipiteno, che male c'è? Cioè, magari si trova benissimo. Se io proponessi la stessa cosa, cioè cambiare la natura della Brigata Sassari, assumendo solo Trentini e spostandola in Valle d'Aosta, le assicuro che ci sarebbe una rivoluzione termonucleare in Italia. Si arrabbierebbero tantissimo. Ecco. Onorevole, io la ringrazio. Lei quest'anno è scaduto il canone, anche quest'anno lei il canone della RAI non l'ha pagato. No, tengo duro, guardi, secondo me... Perché l'onorevole Caparini non paga il canone della RAI da anni e fa una battaglia su questo. Sono convinto che riusciremo a privatizzare la RAI. Prima che loro convincono me di pagare canone. Ah, va bene, capito. grazie. Arrivederla. Non daremo il suo nome, tanto è risaputo al capo dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che tanto insomma sa già che lei non paga il canone, perché lei lo ammette candidamente. Davide Caparini, onorevole della Lega. Allora ci fermiamo e poi nel sondaggio di oggi, dopo la pubblicità, parliamo di elemosina, di chi chiede l'elemosina. Ebbene sì, perché da oggi in Austria sarà sempre più stringente il divieto di chiedere l'elemosina, pena, multe, anche il carcere per chi lo fa. Ma è un tema dibattuto anche in Italia. Pensate che a Genova di recente un parroco ha affisso i cartelli dicendo: non date l'elemosina agli accattoni, fate altre opere di carità, perché non si deve incentivare così un sistema di vita che non va bene. Che ne pensate? Sanzioni per chi chiede l'elemosina, sanzioni per gli accattoni. Non so, magari è una parola che suona anche male, però questo è. Secondo voi è giusto? Ne parliamo tra poco. Votate su radio24.it 800 24 0024. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, oggi in Austria verrà deciso praticamente di allargare a quasi tutta la totalità del paese il divieto di accattonaggio, con multe salatissime, anche il carcere, multe fino a 720 euro per chi chiede l'elemosina. Nei giorni scorsi la Chiesa in Austria ha protestato, molti manifestanti hanno protestato dicendo: lottate contro la povertà, non contro i poveri. Ma di questo oggi parliamo, perché è un tema sentito anche in Italia, ci sono ordinanze di sindaci, è un tema dibattuto, il contrasto di chi chiede l'elemosina con sanzioni, è il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E tra l'altro il 64% dei nostri ascoltatori che vota su Radio24.it dice: sì, è giusto sanzionare chi chiede l'elemosina. Ne vogliamo parlare con il professor Massimo Cacciari, che saluto. Professore, buongiorno. Buongiorno. È stato anche sindaco di Venezia, come ricordiamo. E voglio salutare anche il portavoce della comunità di Sant'Egidio, Mario Marazziti. Buongiorno, Marazziti. Buongiorno a voi, grazie. Senta, professor Cacciari, intanto le chiedo: non è che spesso l'accattone ci dà fastidio perché ci dà fastidio fare i conti con la povertà? Ma ci sono forme diverse di accattonaggio. Ci sono forme molto diverse. Anch'io quando ero sindaco ho cercato di reprimere forme particolarmente che giocavano su esibizioni particolari al limite dello sceno proprio, e quindi ci sono forme di accattonaggio particolarmente odiose, direi, che non Poi naturalmente credo che queste almeno da noi, insomma, non so adesso in Austria, ma da noi queste grida contro l'accattonaggio poi restino particolarmente lettera morta, sa, perché molti comuni sono state emanate norme di questo genere e non hanno trovato alcuna applicazione, perché poi non troverà mai il vigile urbano in Italia che dà la multa all'accattone, glielo assicuro. Quindi si tratta più che altro, per molti comuni si è trattato nient'altro che farsi un po' di reclama a basso, soprattutto in qualche comune della Lega, al nord. Recuperando un po' di reclama a basso. È evidente che se fossimo tranquilli, se in un comune, se in una città si fosse tranquilli di aver fatto tutto il possibile per avere luoghi di ospitalità, strutture adeguate per ospitare, dar da mangiare, eccetera, a chi è davvero povero, è chiaro che sarebbe anche giusto poi reprimere forme di accattonaggio. Recuperando qualche articolo che riguardava proprio il fatto che quando lei era sindaco si parlava di pugno di ferro, il pugno di Cacciari, ricordo per esempio. Erano stupidaggini totali, le ripeto, soprattutto in certe giornate a Venezia o in altre città particolarmente, diciamo, turistiche, in quelle giornate davvero c'era un'invasione di persone che chiedevano la cosiddetta carità, insomma, e con l'esibizione di infermità, eccetera, che diventavano veramente spettacoli da non esibire, da reprimere. E a proposito, Mario Marazziti, lei commentando tra l'altro in un'intervista che era al secolo XIX, parlando di quello che è successo in Austria, pone proprio l'accento su questo, cioè dire in realtà è un modo per volere nascondere un problema che dà fastidio affrontare anche visivamente, però non crede che effettivamente ci siano dei modi di chiedere l'elemosina che sinceramente sono un po' esagerati, Marazziti? Ma guardi, sicuramente ci sono anche modi di chiedere l'elemosina, tra virgolette, esagerati. C'è la persona che quando tu o gli dai oppure non gli dai, magari cammina con te e continua a insistere per vari metri, o ci sono altri modi. Ma il problema del fastidio è un problema molto soggettivo e alla fine anche molto marginale. Il dato reale è che nessuno di noi chiederebbe l'elemosina se non vi fosse costretto, cioè quella famosa scena di Umberto D dove il maestro, diciamo la persona, l'anziano, si mette, mi pare, vicino al Pantheon, prova a chiedere l'elemosina, aveva perso tutto e a quel punto, quando arriva la gente, gira la mano e fa finta di guardarsi la mano perché si vergogna, no? Allora io direi che partiamo da questo. Come superare la molestia? Se c'è molestia si vedrà, ma su questo già c'è sempre stato un regolamento. Allora io ricordo quello che diceva San Giovanni Crisostomo, cioè c'erano due matrone romane che dicevano: vede quel tremolante, è chiaro che finge, è chiaro che è un bugiardo, e lui diceva: ma certo che finge, però se lui non fingesse voi nemmeno lo guardereste, è per il vostro cuore duro che è costretto a fingere. Cioè il problema alla fine è che i mendicanti, comunque i poveri, sono insopportabilmente troppo diversi, distanti da noi, e ci ricordano quanto non c'è nessuna spiegazione per questa distanza tra noi e loro, e quindi diventa insopportabile. Lei tra l'altro ha usato un'espressione come a dire talvolta i poveri, proprio magari nell'esagerazione delle loro ostentazioni, anche la loro povertà nel chiedere l'elemosina, fanno il loro lavoro, no? Fanno il loro mestiere. E non è che i poveri devono essere più buoni di noi, cioè siamo in un mondo di furbi dove tutti cercano di dimostrare di essere più furbi degli altri, dal non pagare le tasse e poi la classe dirigente, non parliamone. Io non capisco perché i poveri debbano essere gli unici puri e puliti. Forse non lo so, forse l'Austria pensa anche per esempio a quelle forme di racket, quelle forme di accattonaggio collettivo. Però vorrei salutare, per farlo sentire, e vorrei poi prima di liberarlo al professor Massimo Cacciari chiedere un commento di quello che ci vuol raccontare Don Mario Miliardi, che saluto. Don Mario, buongiorno. Lei è con noi, vero, Don Mario? Sì, l'abbiamo fatta ascoltare, professor Cacciari e Mario Marazziti. Lei è parroco della Chiesa della Consolazione a Genova e lei ha affisso dei cartelli o ha invitato anche i fedeli a fare che cosa, Don Mario? A non dare l'elemosina a chi fuori dalla parrocchia la chiede? Posso dire così? Questo ha fatto? Quasi. Quasi, no. Cosa ha fatto? Allora, è stato un piccolo cartello per avvisare i fedeli di manifestare il loro spirito di carità, di benevolenza, di attenzione verso i poveri in maniera vera, autentica, intelligente. Cioè, dobbiamo fare la carità a chi ne ha bisogno, a chi si trova in stato di necessità, e farla in modo che possa veramente aiutare le persone. Mm. Allora, si è detto non incentivare l'accattonaggio. Ma questo perché? Forma, perché è una forma di carità che non libera queste persone dalla loro situazione di indigenza, non li aiuta, anzi, più delle volte, trovando questa forma di accattonaggio così poco faticosa e abbastanza redditizia, ecco, si ferma davanti alle porte delle chiese. Loro ha detto, guardate che aiutare queste persone a avere questo atteggiamento, avere questa situazione, quindi continuare in questo modo non è aiutarle. Non è aiutarle. Non è aiutarle, perché sicuramente le spicciole che prendono vanno a farne un uso non per sopravvivere ma per altri usi, è chiaro che questo non è aiutarle. E lei ha suscitato qualche polemica, c'è chi le ha detto ma come, insomma, rappresentante della parrocchia, rappresentante della chiesa, che ha questo atteggiamento molto pragmatico, molto, molto anche severo, molto duro. Non lo so se questo sia duro, pragmatico come atteggiamento, è soltanto un invitare i fedeli a avere una carità, avere un cuore generoso e specialmente farlo in maniera intelligente che possa aiutare le persone. Mm. E quindi un'attenzione a quelli che lo fanno sia per mestiere, sia in modo molesto, sia con ostentazioni, diceva prima, particolari. Diciamo, queste sono cose che dimostrano che di povertà in loro ce n'è poca, e i veri poveri sono quelli che si vergognano di chiedere e si danno da fare, quelli che fanno il possibile e poi quando non possono più chiedono aiuto. Professor Cacciari, che ne pensa? I veri poveri, dice Don Mario, che ha fisso questo cartello, non sono quelli che chiedono l'accattonaggio, ma sono... Non lo so, ma comunque mi pare che stiamo davvero discutendo un po' dell'uovo di Colombo. È evidente che se fossimo in una società generosa ci sarebbero quelle strutture di accoglienza, quelle forme di assistenza, eccetera, eccetera, che renderebbero l'accattonaggio puramente semplicemente colpevole, perché allora a quel punto, appunto, se ci fosse lavoro, se ci fosse assistenza, se ci fosse accoglienza, eccetera, è chiaro che chi va in giro a chiedere la carità è colpevole e basta, ma siccome non siamo perfetti in quell'aspetto, in un sistema come il nostro, come si fa per legge a impedire l'accattonaggio? È chiaro che si potranno reprimere quelle forme, come prima si diceva, che davvero sono invadite, esagerate, diciamo. E però, professore, è chiaro che non ha alcun senso, appunto, dire che i poveri che chiedono la carità, che quelli che chiedono la carità non sono poveri, oppure, cioè, quindi siamo sempre lì, insomma. Però questo avviene, professore, cioè nel senso che ci sono appunto ordinanze, come lei le ha definite, insomma, degli spot. Perché a volte sono degli spot, ma a volte, sa, io guardi, dopo che ho fatto 15 anni il sindaco, a tutti getto la croce addosso, perché i poverini che si trovano nella situazione in cui mi sono trovato io, cioè non c'è mica la più pallida idea di cosa significa ogni mattina che ti alzi avere appunto la cosiddetta nostra società civile che ti invade per una o altre problemi di questo genere, no? O perché ha la prostituta in viale, o perché ha il casino del bar sotto casa, o perché ha il mendicante, o perché ha la strada dissestata, capisce? Cioè, è una croce, ma lei un esercito di infanti incapaci di arrangiarsi su qualsiasi vicenda umana, terrena, cioè questi sono i cittadini, a un certo momento gli dici vabbè ti faccio l'ordinanza, smettimi di rompermi le palle, cioè non è mica possibile, cioè gli infanti poi, sono i cittadini, non c'è idea di cosa sia fare questo mestiere. Poi, no vabbè poi... qualcuno, il professore non l'hanno obbligata però a farlo, eh? Non l'hanno obbligata a farlo, eh? Beh, ma certe volte sai com'è, ti dici magari io in questa città posso fare delle cose importanti eccetera eccetera, poi metà del tuo tempo lo passi con queste cose. Va bene, professore, io intanto la ringrazio per essere stato con noi. Mi fermo un attimo per il traffico, ma noi continuiamo fino alle 9 con qualche ascoltatore. Ringrazio il professor Massimo Cacciari che ci doveva lasciare qualche minuto prima. Le informazioni sul traffico, Riccardo da Lucca, Nicolas da Pavia, sono da voi, con anche poi Mario Marazziti, il portavoce della comunità di Sant'Egidio, il nostro Don Mario della parrocchia della Chiesa della Consolazione a Genova. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, il 63%, il 62% per la verità, un punto percentuale in meno, dice giusto sanzionare chi chiede l'elemosina. Sentite anche il professor Cacciari, insomma, che ci ha raccontato i suoi 15 anni di croce portata da sindaco. Voglio sentire però, tornando al tema, Riccardo dalla provincia di Lucca, buongiorno, che ne pensa? Buongiorno dottore, buongiorno Lucca. A tutti i radioascoltatori. Ascolti. E io ho premesso che l'argomento, come ha detto lei, è veramente molto difficile da trattare e sicuramente rischiamo per passare dica. Io sono contrario, cioè io sono favorevole a sanzionare coloro che chiedono l'elemosina, perché oggi esistono associazioni quali ad esempio la Caritas, a cui ho fatto parte e cui fa parte anche mia mamma in questo momento, che danno da mangiare a chi ne ha bisogno. Esistono anche le parrocchie che li sostengono. Quindi, cioè, come dice il nostro Don Mario, il vero povero non è quello che viene che si mette fuori dalla chiesa a chiedere i soldi, ma è quello che viene aiutato in vari modi diversi, no? Dice Riccardo. Secondo me sì, e poi soprattutto perché non tutti coloro a cui offri anche da mangiare, perché io preferisco dare da mangiare, offrire qualcosa di concreto, li accettano, ma vogliono soldi, e questo a me fa un pochino rabbia. Okay. E poi l'ultima cosa, velocissima, è che la cosa comunque vergognosa è che nel 2011 si continua a parlare di povertà e quindi dovrebbero mettersi davanti la coscienza e governare. Questo purtroppo però in un mondo utopico e utopistico la povertà non c'è, caro Riccardo. Nicolas da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, volevo dire che faccio parte del 62% di quelli che sono a favore. Sì. E questo per due motivi. Primo, perché comunque dietro questo fatto dell'elemosina c'è comunque un business incredibile. Spesso ci sono bambini sfruttati, obbligati a essere andati lì, e in realtà noi facendo l'elemosina non facciamo altro che incrementare questo. E questo però, guardi, siamo tutti d'accordo che quel racket vada stroncato, ma è sanzionare chi chiede l'elemosina, cioè purtroppo loro agiscono così per avere dei soldi, il fatto di toglierli forse è l'unico modo per di toglierli tramite questa via, è l'unico modo forse per interrompere un attimo. Va bene, grazie Nicolas. Mario Marazziti, portavoce della comunità di Sant'Egidio, la colpisce, è Don Mario che è qui con noi, insomma il parroco della chiesa, che dice non è quello il vero povero da incentivare, quello che chiede, che poi usa i soldi non si sa come, ma insomma sono altri poveri, quelli che non ostentano, quelli che magari chiedono ma con umiltà a chi di dovere. Ma i poveri purtroppo hanno tante facce, non siamo noi a dover fare l'analisi davanti a ogni faccia sulla storia di ognuno e su che cosa fa pagare i soldi e così via. Questa è la prima cosa, quindi Don Mario io lo capisco, noi stessi abbiamo il problema di trovare soluzioni strutturali più intelligenti, però c'è la richiesta individuale e c'è una commozione evangelica alla quale io non mi sottrarrei mai. Posso anche pensare che quello è molesto, che quello è antipatico, oppure che ci sta qualcuno che ancora ha più bisogno di lui, ma non posso io determinarlo, non posso dimenticare Matteo 25 e quello che avete fatto a ciascuno di questi miei fratelli più piccoli, che avete fatto a me. Quando gli si risponde è perché noi non lo sappiamo, quindi noi non riconosciamo quel volto. Ma detto questo, il problema è che quando si dice combattiamo i racket, combattiamo i racket, non andiamo a colpire chi è schiavo del racket. Dimostriamo che c'è un racket, se c'è un racket. Oppure il problema dello sfruttamento dei bambini, si figuri, noi facciamo la scuola per i bambini, anche per i bambini zingari in tante città d'Italia, proprio perché nessuno debba stare in strada e in orario di scuola in particolare, ma Anche lì sono tutti casi individuali, non è che perché uno chiede l'elemosina non debbono valere le leggi italiane. Sì. Allora ci sarà un giudice minorile, un'assistenza sociale, si fa una verifica, ma se quello è suo figlio e se quella è l'unica attività, ma dove lo butta? Mm. E insomma, cioè il problema è semplicemente ricordarci che debbono valere le stesse norme e leggi che valgono per ciascuno di noi, quindi c'è molestia. Esistono antichi regolamenti, sì, sì, che colpiscono la molestia. Cioè, ma se applichino questi, dice, ma c'è... Volevo aggiungere una cosa, sì, anche se c'è un ascoltatore. Il problema è semplicemente che noi non possiamo dimenticare che se facciamo una indagine sul fastidio, nessuno di noi vuole essere infastidito, anzi il 62% mi sembra poco, e quando c'è una crisi aumenta il disagio e quindi aumenta anche il fastidio, però detto questo sono tutte persone, esseri umani. Sì, Don Mario, come hanno accolto i suoi parrocchiani questo suo invito a non dare l'elemosina a chi la chiede fuori dalla chiesa? Allora, ripeto quello che ho detto all'inizio, no? Non era non dare l'elemosina fuori dalla chiesa, è di usare intelligenza nel fare l'elemosina, cioè avvisare la gente, i fedeli, che il dovere dell'elemosina, della carità, è un dovere da fare in maniera costruttiva, valida. Sì. E la gente ha risposto senza troppi ragionamenti, ha detto sono d'accordo, senza troppe spiegazioni, così che... sono d'accordo, come il 62-63% che ha detto, citato, perché fa parte di un modo di vivere che, ecco, trovandosi in questa emergenza, sono aumentate molte le accattone, sono aumentate molte le richieste, sono aumentate molte le persone, eccetera eccetera, e questo fa pesare la bilancia dall'altra parte e non verso la parte della carità. Però è un problema che sarà sempre, sempre ci sarà, tutto sta a trovare cose che possono alleviare le difficoltà di queste persone. Ecco, va bene, io ringraziandovi, Massimo da Roma, a 10 secondi, dica cosa ne pensa. Buongiorno, dica. Io volevo chiedere a Don Mario qual è una forma secondo lui intelligente di fare. Ecco, bene, Don Mario, qual è una forma intelligente di chiedere aiuto? Allora, è stato spiegato tante volte, è stato ripetuto che ci sono queste associazioni che sono specializzate apposta per venire incontro, conoscono la situazione, conoscono le persone, conoscono il prima e il dopo di un cammino di recupero, quindi tutte queste istituzioni, da Sant'Egidio alla Caritas, ai centri di ascolto e altre associazioni, San Vincenzo, eccetera, eccetera. Questi lo fanno proprio perché sono persone che hanno dedicato tempo, studio a capire e comprendere questo, e sanno quindi anche in modo migliore. Bussare a quelle porte è la via più giusta. Vi ringrazio, Don Mario Migliardi, parroco della Chiesa della Consolazione a Genova, e Mario Marazziti, portavoce della comunità di Sant'Egidio, insieme a Massimo Cacciari, che è stato con noi. Che dire, Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi sono con noi in redazione e rimangono su Facebook, dove abbiamo toccato oggi quota 2000. Vabbè, questo oggi l'alpino, mi sono dimenticato di chiederlo all'onorevole Caparini, insomma, abbiamo l'alpino, lo sapete, no? Peter Bescapè, l'alpino in regia, vi saluta così. Oscar Giannino, e a domani alle 7:20.